Io e Giorgio siamo arrivati a Frasso verso mezzogiorno e Claudio ci aspettava all'ingresso del paese. Iniziava a nevicare ed era arrivato il momento di rivederci. Però è anche arrivato il momento che vi racconti questa storia. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Per magnetismo si intende la proprietà di attirare dei pezzettini di ferro. Un pezzo di materiale che è dotato di magnetismo si chiama magnete o calamita. Mi piace la fisica per questo motivo qui, perché spiega tutto. Dà un nome e una soluzione a tutto ciò che accade in natura. Qualsiasi mistero, qualsiasi interrogativo può essere spiegato attraverso dei numeri, attraverso delle formule e delle definizioni. È talmente chiara che delle volte si usano dei termini nati per la fisica anche per dare altre definizioni. Il magnetismo è proprio uno di quelli. In questo fine settimana ho incontrato e ho ricordato soprattutto un amico di cui più tardi vi racconterò meglio. E dopo 5 minuti in cui si parlava di lui, ho capito che cosa significava quel termine lì, attribuito ad una persona. Il magnetismo è una cosa impalpabile, è un modo di parlare, di dire, di riferire le cose, di muoversi nello spazio, di pensare, anche di sorridere. È qualcosa che non si studia, non si impara. Non ci sono lezioni all'università o master in magnetismo. Ci sono persone che ce l'hanno e altre no. Quelle che ce l'hanno a volte non lo sanno, invece a volte lo sanno e come, e lo usano. Certo è che se per la vostra strada avete incontrato una persona che aveva quel regalo lì, ve la ricordate bene, perché magari ne siete rimasti affascinati. Che si trattasse di un professore, di un capo, di un amico o un parente, ve lo ricordate. Oggi io voglio raccontarvi la storia della forza magnetica di quel mio amico lì. Se volete raccontarmi dei vostri, invece, io sono qui. E il numero è sempre quello, è sempre 800240024 oppure 349-238-6666. Anche in questo lunedì 31 di gennaio 2011, che se non sbaglio è uno dei giorni della merla, giusto? Il 31 di gennaio, quali sono i giorni della merla? Rudy è sicuro, il 31 c'è, ma sono tre però i giorni della merla. Sono 29, 30, 31. Perfetto, e anche la merla l'abbiamo sistemata. 800240024 349-238-6666. Ho cominciato a raccontarvela più o meno settimana scorsa, questa piccola parentesi della mia vita che ha a che fare con il mio passato e adesso invece ha a che fare anche molto con il mio presente, perché questo fine settimana sono stato in montagna ma non sono andato a sciare, sono andato a incontrare delle persone che si avvicinano moltissimo a quella definizione che noi diamo di amici quando abbiamo 15 anni o 14 anni. Erano solo una parte di quel gruppo di amici e adesso vi racconterò meglio questa storia, visto che finora l'ho solo toccata tangenzialmente. Quindi se vi siete chiesti chi fossero Giorgio, chi fosse Claudio, ma soprattutto chi fossero Agostino e Gaia, oggi è arrivato il momento di scoprirlo. Una di queste persone aveva proprio quella roba lì, aveva quella roba del magnetismo, quella cosa che non si capisce che cos'è, non si capisce da dove arriva, ma tutti quanti abbiamo ben presente di cosa parliamo, come di questo ascoltatore che ha un nome impronunciabile, che però prima sul profilo Facebook mi ha scritto: io ho un amico che, pur essendo fuori moda, non particolarmente di bell'aspetto, è spettinato, un po' trasandato, uno che non esce mai, che ascolta solo musica classica da solo in casa. Quando parla lui, tutti lo ascoltano come fosse un maestro di vita, riuscendo ad attirare l'attenzione di tutti. E la cosa interessante è che quasi non parla. Deve essere quello allora. 800240024. Stefano, lui è piccoletto, sui 70 anni, testa cocciuta di un trentino doc, con una smorfia della. Non riesco più a leggere, con una smorfia della bocca apparentemente severa, ma che contrasta in modo incredibile con la sua apertura agli altri. Una capacità di ascolto disarmante e la carica di un ventenne. Si tratta di un prete deoniano. Deoniano. Grazie a Laura Faggin, che va a cercare subito Deoniano per evitarmi brutte figure, anche se praticamente l'ho già fatto. Chi è di Modena probabilmente si è già fatto un'idea. Si vede che certi uomini o donne hanno nel DNA un carisma innato, senza il bisogno di fare sermoni o proclami di chissà che genere. 349-238-6666 oppure 800240024. Quella persona lì, avete capito di chi si tratta? Che sia stato un vostro capo, che sia stato un compagno di classe, un amico o un parente, se quel magnetismo ce l'aveva su di voi, un fascino, l'ha riversato. 800240024. Prima di cominciare il racconto, mi è venuto in mente, quando ho parlato di Agostino, che è la persona di cui vi parlerò oggi, un personaggio di un libro che è Stand By Me, anzi in realtà il racconto si intitola in un altro modo, si intitola L'autunno dell'innocenza. Stiamo parlando di Stephen King, vi ho già letto un pezzo una volta, però c'è un personaggio di questi ragazzini che poi nel film viene interpretato da River Phoenix, che ha esattamente quel magnetismo lì, e King lo descrive in questo modo. Chris Chambers aveva 12 anni mentre mi diceva tutto questo, ma mentre me lo diceva la sua faccia si era raggrinzita, si era trasformata in qualcosa di più vecchio, di vecchissimo, di senza età. Parlava senza tono, senza colore, eppure, ciò nonostante, quello che diceva riempì di terrore le mie viscere. Era come se avesse già vissuto tutta quella vita dove vi dicono di salire su e fare girare la ruota della fortuna. E quella gira alla perfezione, e uno spinge sul pedale e viene fuori il doppio zero, il banco vince, perdono tutti. 800240024 349 238 6666. Si parla di magnetismo, ma si parla soprattutto di Gaia e di Agostino. La sera del 2 di novembre, dal fondo dei burroni, dal letto dei torrenti, dai cimiteri della Valsesia aggrappata al Monte Rosa, si levano i morti e si mettono in cammino verso la loro montagna. Ogni scheletro ha il dito mignolo infuocato e quel lumicino lo guida nel cammino. Se incontrano un uomo vivo lo fermano, lo fanno cavaliere, gli consentono di esprimere un desiderio e gli donano una bacchetta per dirigere la processione, così che la folla dietro a lui possa procedere rapidamente e superare ogni difficoltà. Se incontrano un burrone o un torrente, la più colpevole tra le anime, si fa innanzi, allunga le braccia e le gambe fino a raggiungere la sponda opposta, facendosi ponte per gli altri. Quando le sue mani toccano l'altra riva, la fila dei morti passa sullo scheletro scricchiolante e attende il passaggio della schiera. La processione raggiunge i ghiacciai prima dell'alba e lì, in penitenza, espiano i loro peccati picchiettando il ghiaccio con degli spilli e il suono si diffonde nelle valli. I valligiani, da sempre, la notte del 2 di novembre, porgono orecchio alle montagne e a quel suono rabbrividiscono. La Valsesia è una valle bassa e stretta che si allunga verso il Monte Rosa. È un posto in cui 8 secoli fa, passando dalle vette più abbordabili delle montagne circostanti, è arrivato un popolo di origine germanica. Erano minuti e biondi, costruivano case in legno e pietra per mantenere la temperatura in estate e in inverno. Era un popolo che si faceva chiamare Tich, ma che tutti conoscono come i Walser. Parlavano una lingua che era una derivazione del dialetto dell'Alta Sassonia. Sono partiti dall'Alto Vallese e si sono sparpagliati tra l'Italia, la Svizzera, il Liechtenstein e l'Austria. Abitano le regioni alpine attorno al massiccio del Monte Rosa. E in Italia, tra la Val d'Aosta, la Val Formazza e la Valsesia, se ci andate, si trovano ancora i loro villaggi e alcuni discendenti di questa popolazione di montagna. Ho passato molte estati in quei posti, visto che nell'agosto del 1975, proprio pochi giorni dopo la mia nascita, i miei genitori mi ci portarono per passare l'estate al fresco e in quel posto poi decisero di prenderci una casa. Conosco bene quei posti e quella gente. E ho il loro dialetto incomprensibile, che sembra arrivare da qualche parte scura e misteriosa della Germania, e che racconta leggende che da bambino mi facevano più paura della favola di Barba Blu. Conosco bene quei posti e quella gente. Per questo mi sono stupito quando Giorgio Piacentini mi ha detto che Claudio, dopo essere stato in missione in Africa, era diventato parroco di un paese della Valsesia. Proprio perché li conosco bene, sabato mattina sono passato a prendere Giorgio e siamo partiti per Frasso. Frasso è un paese minuscolo che si trova poco prima di Alagna. Era solo un alpeggio una volta, ma da qualche tempo hanno costruito una strada e ci si arriva anche in auto. Io non lo so perché Claudio abbia deciso di andare a fare il prete lì. A dire la verità, io non so nemmeno perché Claudio abbia deciso di fare il prete in assoluto. Sapevo però il motivo per cui io e Giorgio ci stavamo andando. Di quel motivo facevano parte noi tre, che stavamo per incontrarci. E c'erano due persone invece che a quell'incontro non ci sarebbero state: Gaia e Agostino. Siamo arrivati a Frasso verso mezzogiorno e Claudio ci aspettava all'ingresso del paese. Iniziava a nevicare ed era arrivato il momento di rivederci. Però mi sa che è arrivato anche il momento di raccontarvi questa storia. What you gonna do on a Saturday night? Who you gonna see when the day gets dark? I need some time. Agostino Gavorrano era biondo con i ricci e aveva la Priglia 50 RX. Come me e gli altri, frequentava il seminario da studente esterno. Non voleva farsi prete, insomma. Doveva solo prendere il diploma di terza media. Agostino aveva quell'aura di forza che alcune persone hanno in dono. Non sai da dove arrivi, però gliela riconosci. È un modo di camminare, di entrare in una stanza. È il suono pieno della voce, oppure la forza con cui afferra gli oggetti o ti appoggia una mano sulla spalla. Non aveva bisogno di essere bello. Eppure i capelli biondi da cherubino e le labbra sottili lo facevano sembrare uno che con noi non aveva niente da spartire. Fumava sigarette già all'età di 14 anni. Le strizzava in mano prima di metterle in bocca e poi, quando le accendeva, ricordava, a guardarlo così, Gigen, l'amico di Lupin. Quando ancora non aveva l'età per guidarla, Agostino veniva a scuola in moto. La moto che tutti volevano all'epoca. Era un enduro. E anche se il motore era solo 50 di cilindrata, la Priglia RX era la moto che ti faceva sembrare più figo di tutti. Quando arrivai in seconda media, lui non mi rivolse la parola praticamente per tutto il primo trimestre. La sua amicizia non era gratuita. Te la dovevi conquistare. Alla fine del secondo anno, un giorno, Agostino mi chiese se potevo accompagnarlo dal meccanico. Io ero a piedi e lui prese in prestito la bicicletta dal portinaio vietnamita del seminario. Quel tragitto in bicicletta mi sembrò brevissimo. Mentre pedalavo con lui seduto alle mie spalle, cercavo disperatamente qualcosa da dire per sembrare interessante. Ma non mi venne nulla, se non una brutta battuta su Suor Diletta, la nostra insegnante di religione. Però la battuta non venne bene e non fece ridere nessuno, nemmeno me. Poi arrivò l'estate e l'anno dopo il seminario aprì le sue classi alle ragazze. Nella nostra ne arrivarono 5. Di 4 di loro praticamente non mi ricordo nulla. La quinta, invece, si chiamava Gaia ed era la compagna che tutti immaginano quando immaginano una compagna di classe. In terza, a quel punto, il gruppo ormai era deciso. Agostino, Claudio, Giorgio, io e poi c'era Gaia. Sorrideva sempre Gaia. Era seduta davanti a me e quando muoveva appena la testa, i capelli emanavano un profumo di glicine. Era ipnotica Gaia. Non potevi non stare a guardarla, anche se non faceva niente per farsi guardare. Era naturale, cioè era scritto da qualche parte, era quasi obbligatorio che lei e Agostino si trovassero. In qualche modo non ci fu nemmeno bisogno che lo dicessero a loro o agli altri. Però Agostino era con noi e non ci avrebbe mollati per una ragazza. E visto che lui era con noi, anche Gaia divenne parte di noi. E quindi da un giorno all'altro non eravamo più in 4, eravamo in 5. Finché arrivò il pomeriggio in cui ci mettemmo a giocare. Il gioco a cui giocammo era il gioco della bottiglia. A nominarlo così dopo 16 anni, il gioco della bottiglia fa quasi tenerezza. Le persone lo ricordano sorridendo, pensando a come ci potesse essere un'età in cui la trasgressione stava nel dare un bacio. E di farlo solo perché una bottiglia che girava si fermava ad indicare due persone tra quelle sedute in cerchio. Ma quel gioco noi non l'avevamo mai fatto prima. Gaia invece sì. Gaia lo aveva fatto e fu lei a proporcelo. Noi ne avevamo sentito parlare con quell'eco epica che hanno tutte le cose che riguardano il sesso negli anni in cui hai 13 anni. Era uno degli ultimi pomeriggi di studio vero, prima degli esami. Eravamo a casa di Giorgio per il compito di matematica. Nessuno di noi pensava a quel compito e tutti cercavamo un modo per attirare l'attenzione di Gaia. Bastava un suo sorriso. Bastava un sorriso ad una battuta per farti perdere l'orientamento. Era sufficiente che rispondesse ad una tua domanda, o meglio, che ti chiedesse un'informazione, tipo il risultato di un esercizio, per farti sentire più importante. Agostino non c'era però, non era venuto. Disse che aveva degli allenamenti di non so cosa, ma il motivo era un altro. Il motivo era che aveva litigato con Gaia, che non si parlavano e non voleva farci vedere che stava male per una ragazza. Noi ne approfittammo. L'idea di essere da soli senza re ci sembrò un'occasione imperdibile. E forse lei alla fine lo fece per quello. Lo fece perché qualcuno lo andasse a raccontare ad Agostino, che ci propose di giocare alla bottiglia. Ci tremava l'anima al pensiero di poter sfiorare le sue labbra. Era lei a farla girare. Ed era lei a decidere dove baciarti. In fronte, sulla guancia, sulle labbra. Io sentii arrivare la moto di Agostino. E sono sicuro che la sentì anche lei. Sono convinto che fu solo per quello che decise di baciare Claudio sulla bocca. A lungo. Come se stesse aspettando. Come se stesse aspettando che lui entrasse. Quello che successe poi, nella sequenza in cui successe, è l'ultimo ricordo che ho di Gaia, di Agostino e di noi. Il modo in cui lui tirò un pugno a Claudio, in cui prese il braccio di Gaia e la trascinò verso la moto. Il rumore del motore che spinge e loro che spariscono dietro la curva. Il ritorno a casa con i primi sensi di colpa, la telefonata e la voce di mia mamma che mi dice che Agostino ha avuto un incidente, che lui sta bene, ma Gaia no, che è in ospedale. E poi l'attesa, un'attesa che sembrava non finire mai e che è finita solo qualche giorno fa, 22 anni dopo. Chiamava Fabrizio, era brutto, ma si muoveva e parlava con lo stesso fascino di Sean Connery. Dalla prima fino alla terza liceo eravamo tutte imbambolate a guardarlo. Luisa. Poi oggi mi è arrivato questo messaggio che mi diceva: la mia professoressa di italiano delle medie, al secondo anno, pur di non rimandarmi a settembre, strinse un patto con me e con mia madre. Pronto, Massimo? Pronto, eccomi. Ciao, buongiorno. Ciao, devi abbassare un po' la radio, mi sa, Massimo, altrimenti non ti sentiamo o ti sentiamo doppio. No, sono con il giro dolce, scusa. Benissimo, benissimo. Massimo, c'hai il viva voce, allora dovresti toglierlo, se a meno che tu non stia guidando e non stia rischiando la vita in automobile. No, no, ci mancherebbe. Senti, Massimo, raccontami qual è la storia di questa professoressa e qual era il magnetismo che ti ha permesso, mi è parso di capire, di passare tutti gli anni indenne al liceo. No, no, non ero, era alle medie. Ah, alle medie, meglio ancora. Era un po' più retro, per cui correva l'anno 72. L'incontro con questa professoressa è stato quasi magico, perché aveva proprio le sembianze della classica professoressa col taglierino, proprio quasi belle toque. Dimmi qual era il patto però, Massimo, raccontami che cosa ti ha proposto. Beh, cosa mi ha proposto? Diciamo che c'è stata subito una certa simpatia reciproca, no? Perché si sforzava sempre di capire un po', diciamo, me come studente, no? E io di questo me ne accorsi subito, nell'immediato. E quindi cosa ti propose? E poi, visto e considerato che non ero un gran genio in italiano, lei arrivò a questo compromesso, no? Che tutto sommato incuriosì anche mia madre, perché è una procedura insolita, no? Quella, cioè? Di mandare i temi, diciamo così, al suo domicilio, come se fosse una specie di... non di piacere, ma di attenzione particolare. Cioè, quindi, scusami, se non ho capito male, per l'estate lei ti disse: vabbè, io ti promuovo, però tu mi mandi durante l'anno i temi a casa mia. Sì, era come un patto, no? Però era interessante proprio la forma umana di questa cosa. Massimo, devo mandare la borsa, dimmi solo come si chiamava la professoressa. Si chiamava professoressa Cupo, insegnava a Milano. Grazie mille, Massimo, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, alla prossima. Adesso la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in riva al mare, grandi paesaggi in quest'ultimo periodo. Siamo in riva al mare, su una parte alta della costa, direi. Si vede quasi il cerchio dell'orizzonte. Il cielo è appena illuminato, potrebbe essere l'alba, ci sono delle nuvole bianche che dividono esattamente a metà la parte illuminata d'arancione del sole con la parte azzurra del cielo. Marco Madonna, 30 anni. Dopo una giornata di intenso lavoro mi ritrovo a guardare questo immenso e meraviglioso tramonto sull'ultima isola a sud d'Italia, Lampedusa. Io sono qui. Se non ne azzecco, tramonto e alba proprio, ma manco se mi pigliano ammazzate. Andiamo con calma. Chi sono i Deoniani? Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. Sono un istituto religioso maschile di diritto pontificio. I membri di questa congregazione clericale, detti popolarmente Deoniani, si dedicano al ministero sacerdotale, alla formazione del clero e a diverse opere di apostolato missionario e sociale, sempre in spirito di riparazione delle offese dell'umanità al cuore di Gesù. Eccolo, sempre. Grazie a Laura Faggin per la precisazione. Intanto, qualche altro messaggio, visto che si parla di magnetismo e di persone che ne sono in possesso e che in qualche modo ci hanno affascinato, come succedeva per me con Agostino e come devo dire succede ancora. Allora, ciao Matteo. No, questo cosa c'è? Una curiosità. Ho visto le tue foto su Facebook. Ti ricordavo diverso. Ti sei trapiantato o tinto i capelli? Bravo, stai meglio. No, non mi sono né trapiantato né tinto i capelli. Però dovesse essere che mai lo farò, sarai il primo a saperlo. Fabrizio, il mio migliore amico, musicista, insegnante, pazzo magnetico. Io sono qui. Claudio mi scrive: dicono che lo sia io. Forse per questo che sento gelo intorno? Sì, o magari è solo perché è bastato il riscaldamento, ad esempio. Magnetica è stata una voce sconosciuta al telefono 4 anni fa e ora c'è un meraviglioso bambino. Giovanna, andiamo invece a sentire qualche telefonata. Andiamo a Brescia da Elisa. Pronto Elisa? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Senti, allora tu mi hai scritto l'intramontabile professore del ginnasio Oscar Janowitz. Esattamente. Che già il nome è magnifico, sembra il titolo di un romanzo di Dostoevsky. Chi era e che cosa aveva di particolare? Noi siamo arrivati quindicenni all'inizio del ginnasio, questo professore che doveva insegnare greco, latino, storia, italiano, quindi tutto quanto, ha cominciato subito a darci del lei e noi eravamo basiti da questa cosa. Si parla di quanti e di che anni, Elisa? Nel 2000. Quanti anni hai tu? 25. 25. E cosa fai, Elisa? Io adesso studio lettere e lavoro con mio padre in una gastronomia. Ok, torniamo a Janowitz. E oltre al fatto di darci del lei, che per noi era una cosa assolutamente nuova, quando parlava, quando teneva le sue lezioni, non volava una mosca, c'era un innamoramento assoluto dell'audience. Senti, che fine ha fatto il professor Janowitz? Ha smesso di insegnare qualche anno fa. È in pensione, quindi? Ha smesso di insegnare, sì. Aveva sottoposto a prove tremende, tipo imparare a memoria i sepolcri di Foscolo, cose del genere. Tutti i sepolcri? Tutti i sepolcri, dal primo all'ultimo verso. Scusami, ma quindi tu ti ricordi un pezzo dei sepolcri? All'inizio, l'incipit. Cioè, che più o meno sanno tutti che è? All'ombra dei cipressi, bla bla. Non ricordo nulla, però era stata una prova veramente incredibile. Elisa, ti ringrazio molto. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao, anche ciao, a te. Ciao, ciao. Oggi è la festa di Don Giovanni Bosco. Lui aveva un grande magnetismo e gli è rimasto ancora oggi, immutato. Giovanni Bosco è quello dei Salesiani. No, degli oratori. Giovanni Bosco, Laura Faggin mi guarda con una faccia come se fossi un folle, è quello che ha inventato gli oratori, giusto? Rudy mi dà ragione, perfetto. Poi mi dicono che i giorni della merla non sono 29, 30, 31, ma sono 30, 31 e 1 febbraio. E poi Marina mi scrive anche: due li ho e uno lo procurerò. Fonte di mia nonna che raccontava tutta la ghirlanda. Boh. Vabbè, andiamo direttamente da Luigi a Roma. Pronto Luigi? Luigi. Buongiorno. Ciao, buongiorno, ci sei? Io sono qui in macchina, Roma, in mezzo a tutto il traffico. E però sei fermo, Luigi? No, il Bluetooth, come usa dire. Benissimo. Raccontami invece qual è il personaggio che in qualche modo, per il suo fascino, ha segnato la tua vita. Dunque, sotto, ripeto, quello che si può dire l'iniziazione... Sì. Sessuale, anche se non è stata iniziazione. In pratica io nella quinta elementare avevo una maestra. Siamo in fascia protetta, Luigi. Sì, dimmi. E avevo una maestra e niente, l'atto di stregoneria furono le gambe che io vedevo sotto la cattedra della maestra e ogni giorno ero sempre più attratto a queste gambe che poi... A un certo punto bisogna anche accavallarsi. Ma scusami, tu questa scuola l'hai fatta in Africa? In Africa, sì, in Asmara. Ma perché ti trovavi lì? Perché io emigrai con la famiglia lì nell'anteguerra, nella prima della guerra d'Etiopia, della conquista dell'impero, e per via della professione di mio papà, che era ricercatore chimico, e l'azienda mineraria italiana lo mandò in colonia per le ricerche aurifere. Senti, ma lei era una maestra italiana, però, ovviamente. Come dici? Era una maestra. Le scuole erano italiane. E ti ricordi come si chiama lei? Come si chiamava? Sì, lo ricordo, però io nella vita ritengo, per una persona di classe o di stile, non lo so, di vantare o dire i nomi, non so, uno conquista una donna, già. Io ritengo che veramente un uomo debba avere il buon gusto di tacere alcuni nomi. Il buon gusto, il buon senso, lo stile e la classe di non nominare, perché soprattutto se alla fine siamo noi che godiamo delle grazie di Venere, no? Certo. Per intendere. Luigi, scusami, mi dici solo quanti anni hai e cosa hai fatto poi della tua vita? Io ne ho 76. E poi cosa hai fatto quando sei venuto via dall'Africa? Cosa hai studiato e che lavoro? Quando sono venuto via dall'Africa, sono venuto in Italia in tempo, perché ho intuito i venti di guerra, e mi sono messo a lavare pavimenti. Sì. Poi dai pavimenti. Tutto l'Italia. La grande fortuna di una moglie che mi ha seguito con coraggio, e che purtroppo ho perso. Che ho perso, mi ha seguito con coraggio e la sua fiducia mi ha fatto passare dai pavimenti. Io sono un imprenditore che si è fatta la sua strada, come suol dirsi. Sì, senti, con una figlia. Luigi, la tua storia è bellissima, anche perché mi raccontano che tu stai per fare un provino per una trasmissione televisiva, è vero? Sì, sì. Che cos'è? Mi chiamano a Londra perché ho mandato un form, sì, e mi hanno telefonato, dice, ma la sua descrizione che è di one man show, in pratica recito qualche riga dell'atto terzo di Shakespeare, Giulio Cesare, ritenendo il monologo di Marcantonio il più geniale, rivoluzionario di tutta la storia politica di tutti i tempi. Luigi, scusami, mi dici però che programma è questo inglese a cui vai a fai il provino? British Got Talent, che è tipo America's Got Talent, per cui è una sorta... Tipo America, tipo Italia, tipo tutto questo, sì. Senti, e quando vai a farlo questo provino? Alla fine di febbraio, però già sono andato a fare un pre-provino. Quindi, c'è il rischio che tu vada a Londra a fare un programma televisivo in cui reciti Marcantonio. Mi dici rischio. Io ti faccio chiaramente il più grande in bocca al lupo, però mi reciti un pezzettino di quel monologo? First Romance countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good. Luigi, mentre Luigi continua il suo monologo, io lo ringrazio e spero di sentirlo dopo che lui ha fatto il provino. Intanto vi voglio leggere, visto che prima avevo letto un pezzo, voglio leggervi un altro pezzo tratto da Stand By Me, che ricordo è Ricordo di un'estate. Finalmente, quando la violenza del pianto si fu un po' calmata, fu Chris ad andargli vicino. Era il duro della banda, forse era anche più duro di Jamie Gallant, pensavo in segreto. Ma era anche quello che sapeva meglio mettere pace. Aveva un modo suo. Lo avevo visto sedersi sul marciapiede accanto a un ragazzino in lacrime con un ginocchio spellato, un ragazzino che non conosceva nemmeno per la pelle, e mettersi a parlare con lui di qualcosa, finché il piccolo dimenticava che doveva fargli male. In questo Chris era bravissimo, era abbastanza duro da essere bravissimo in questo. Io ringrazio tutti quelli che hanno fatto sì che questo programma andasse in onda anche oggi, che è Fabio Candadori, Tiziano Bonini e Laura Faggin. Ringrazio però soprattutto Luigi da Roma, che ci ha regalato un pezzo di Shakespeare e un pezzo della sua vita, anche se non ho capito bene com'è andata poi con questa maestra. Credo sia semplicemente attratto dal fascino delle sue gambe. Voglio chiudere con un ultimo messaggio che dice così: si chiamava Fabrizio, era brutto ma si muoveva e parlava con lo stesso fascino di Sean Connery. Dalla prima fino alla terza liceo eravamo tutte imbambolate a guardarlo. Luisa, domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?